a Mario, te conviene rifiutare. Non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo. Ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera. E questo dice il popolo di Roma. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. L'obiettivo finale è far impiantare un chip RFID a tutti in questo mondo e trasferire tutto il denaro in questi chip e avere tutto in questi chip, in modo che se qualcuno protesta contro quello che facciamo o viola le nostre regole, basta soltanto cancellare i loro chip. Proprio così, microchip. In conclusione, tutti saranno intrappolati in una rete di sorveglianza dove ogni vostra singola azione sarà documentata, e se uscite fuori dalle righe, a loro basterà spegnere il vostro chip. Quando questo accadrà, ogni singolo aspetto della società ruoterà attorno alle interazioni con questi chip. Questa è l'immagine del futuro che si prospetta davanti a noi, se aprite gli occhi e cercate di vedere. Un'unica economia mondiale centralizzata dove i movimenti e le transazioni di ciascuno sono registrate e monitorate, sottraendo tutti i diritti. In tre capitoli: religione, 11 settembre che sarebbe inside job, la massoneria alla fine, il controllo globale. Non so se lo sapete, ma in America hanno già iniziato a mettere i microchip all'interno del corpo umano per registrare, per mettere i soldi, e quindi è un controllo di tutta la popolazione. Quelle persone che se lo fanno iniettare non sanno a cosa vanno incontro. D'accordo. Davide, ci sei? E poi hai capito perché la gente, perché non mi devo incazzare? Poi mi dici no, ma non ti devi arrabbiare. Microchip, irochesi, boscimani. Che stai dicendo? Scusa che si è sentito male, disturbatissimo. Ho detto irochesi, boscimani, microchip impiantati sotto per il controllo globale. Basta, non ne posso più, basta. Ma ti incazzi pure se uno dice che è vegano? Ma vegano, sei uno che non mangia né carne né pesce né uova, quelli sono cazzi suoi. Però dici, non è una filosofia politica l'essere vegano. No, ai fini legislativi non mi interessa nulla, ma nulla. Allora, avete ascoltato un signore che si chiama Paolo Bernini del Movimento 5 Stelle, deputato, ieri sera a Ballaroma, anche nella sua presentazione. Aveva detto di essere un seguace, uno che era stato affascinato da Zeitgeist, una cosa complottistica, adesso sarebbe lunghissimo spiegare, andatevela a cercare su internet, anche a voi tassisti mitici che state guidando, quando tornate a casa andate a fare Zeitgeist. Vegano, sentite. Ciao a tutti, sono Paolo Bernini, ho 25 anni, sono laureato in tecnologia della comunicazione. I temi che mi stanno cari sono tutela degli animali, la città dello Stato, che sono vegano e sono disiscritto dalla Chiesa Cattolica. Ah, questo era quello disiscritto dalla Chiesa Cattolica e vegano, eh. Ma ci sono molti vegani però, molti vegani in Parlamento, molti vegani del Movimento 5 Stelle. Cambierà qualcosa, basta, chissà. Basta che non mi impongono a me di non mangiare carne, per questo possono fare quello che vogliono. 800240024, questa è la zanzara. Certo, oggi c'è questa direzione. No, del... questa è Casaleggio Radio. No, ma che Casaleggio Radio, finiscila. Quando è che intervisterai gli irochesi? Dice, abbiamo qui ospite, signore, un esponente degli irochesi. Intanto che Bersani dice che la strada è questa, c'è un tentativo di accordo con Grillo, non c'è nessun piano B. Grillo gli risponde dal blog: il PD è più vicino al PDL che a noi. Beh, dalla direzione del PD però sono venute fuori cose eccezionali, caro Parenzo, eccezionali, sì, al di là di Bersani. Senti uno dei fedelissimi del segretario, Speranza, un giovane del Partito Democratico, la colpa è della crisi, non della comunicazione, cioè abbiamo avuto un cattivo risultato, abbiamo perso, eccetera, per colpa della crisi. Se noi oggi immaginassimo che abbiamo perso le elezioni per qualche errore di comunicazione in campagna elettorale, oppure... se immaginassimo che c'è un tema legato a persone, a soggetti, a responsabilità individuali, commetteremo il grande errore di non leggere la profondità di quello che è accaduto. E io penso che il tema di fondo sia una crisi economica senza precedenti. La colpa è della crisi. Ma scusa, non riguarda anche gli altri partiti la crisi? Cioè, anche... ma è una cosa pazzesca. Bisogna avere speranza, diciamo. Speranza, speranza, nome, nome, speranza in qualcuno, dici. Speranza in qualcuno, in qualcosa, in un'idea, in una roba. È colpa della crisi, è colpa delle antiche necchie, è colpa delle cavallette. Anche Fassina ha detto che le nostre elezioni sono state europee. Le nostre elezioni sono state europee e non italiane. Però lasciamo perdere Fassina e concentriamoci su una senatrice che si chiama Negri, che ha detto bella la relazione di Gianluigi. Senti, Gianluigi. Lo so, ma lei lo chiama Gianluigi. Gianluigi è Nuzio Paragone, forse. È nata l'ultima parola. Senti. Ecco perché io mi auguro che si formi poi un governo che abbia il tempo necessario per affrontare almeno alcuni di questi problemi. Naturalmente alcuni, la bella relazione di Gianluigi li ha affrontati, altri sono mie opinioni personali, non sono nel bagaglio della proposta attuale del partito. Gianluigi, anche la Pinotti che dice, Roberta Pinotti, non siamo una casta algida. Ha detto proprio così, non siamo una casta algida. Dobbiamo riuscire a comunicarle che le sentiamo queste urgenze, che non siamo una casta algida. E vabbè, comunicate che non siete una casta algida. Crozza e i grillini, Crozza e i grillini. Sentite. Ma no, dai, che sono carini. Ma dai, ma guarda che sono come noi. Ma guarda questo qua, cazzo, guarda questo qui. Sembra mio cugino. Un momento, ma mio cugino è un coglione. Ma è il caso di sentire Berlusconi? No. Ma sì, in questo momento tutto l'intervento di Bersani, scusa. No, tutto l'intervento di Bersani, chiudiamo la Claire, no? Chiudiamo. Gli otto punti favolosi sono dei titoli. No, ma Dario Fo, ti voglio far ascoltare invece Dario Fo, che dice ormai la politica è cambiata, non è più un tango ma un rock. Senti che è spettacolare. Mi dispiace per voi, cari maestri dello sberleffono. Stavolta la danza è un'altra, è cambiata l'orchestra, i musici e anche i ballerini. E non è più il tango col casché, ma un rock. Con lancio in aria di chi fa il furbo e ci allunga troppo le mani sul culo. Ma è totalmente impazzito. È totalmente impazzito. Chi è che poi allungava la mano sul culo? Non ho capito bene. Vabbè. Questo devi metterla proprio come in continuazione. Vabbè, sfidando forse i regolamenti, o forse no, perché la radio non è compresa in realtà nel regolamento che vieta ai parlamentari dei 5 Stelle di andare nei talk show. È con noi un senatore piemontese, si chiama Alberto Airola. Buonasera. Buonasera a tutti. In realtà i talk show sono vietati se mi intervista qualcuno, invece no, ecco, quindi. Cioè questo non è un talk. Questo non è un talk però, eh. Cioè, no, infatti. Cioè non ci sono altri interlocutori, non ci sono altri interlocutori. E poi la radio non c'è scritto dentro, no, la cosa. O in realtà è sottinteso. No, vabbè, la radio è la televisione che è più pericolosa perché è più potente. La radio, certo, purtroppo, benché sia figlia della radio, la televisione. Esatto. Ma scusi, ma lei è d'accordo con questa cosa che non si può andare nei talk show o pensa che sia veramente una stronzata, un'esagerazione? Ma io penso che sia giusto non andarci perché ci ho lavorato, ho visto... Sì, lei ha fatto anche l'operatore, talk, no? Show, sì, ho lavorato per la TV, per il cinema. E quindi mi sono reso conto che i talk show nello specifico sono delle messe in scena, sì, non tanto dei programmi di informazione. Poi guardi, ieri sera guardavo l'onorevole Gasparri, sì, che, su Facebook, perché forse stamattina era in una trasmissione dove c'era anche lei, no? D'Agorà, io, sì. Io sono intervenuto in collegamento. Sì, è meglio non averli accanto, dice lei. Ma no, per carità, certo. Cioè stare vicino a Gasparri è gente pericolosa. è tremendo. E comunque ho visto e aveva una serie di post ed sì, erano tutti riguardanti partecipazione a trasmissioni, ma era una cosa, cioè un lavoro. Cioè lei allora, dice che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, vanno solo in televisione. Si domanda cosa succederà, esatto, adesso che noi saremo tutti, perché in effetti nel Parlamento c'è un grandissimo astensionismo, sì, e questo tra l'altro probabilmente denota il fatto che si mettono anche d'accordo su far passare le leggi. No, ma guardi, su questo no? Io sono completamente d'accordo con lei, che i politici italiani abbiano pensato negli ultimi anni soprattutto ad andare nei talk, al di là della questione della partecipazione ai talk o no, e sì, Parenzo, anche tu che sei sempre antigrillino come al solito, devi un po' su questa cosa qua devi essere d'accordo. Ma non è così. Cioè l'Italia è il paese dove c'è il più alto tasso di programmi televisivi. Ma va bene, ma certo che non è il problema. Ovviamente i politici però sono sempre lì, o no? Sì. No, non è un problema. Vabbè, non è un problema. Ma no, vanno lì, basta che rispondano alle domande. Senta, ma lei cosa provocherebbe stare accanto a Gasparri in una trasmissione, Airola? Ma guardi, non spero di non provarlo mai, ecco, magari ce l'avrò di fronte. Ah no, perché lui è alla Camera, Gasparri. No, al Senato, Gasparri, al Senato. Ah, è Senato. È stato capogruppo del PDL. Le dovrà anche dare la mano, qualche volta, o no? Sì. Farò quel gesto, sa, finto, no? Che uno allunga la mano poi la toglie di colpo. Cioè, la lava, poi. Le fa anche un po' schifo, oppure se la va a lavare, come dice Parenzo, no? Ma no, ci sono quei comodissimi boccettini di disinfettante, poi gel disinfettante portatile. Beh, è da portare al Senato, dice lei spessissimo, Airola. Al Senato si porta la boccettina. Va bene, abbiamo il traffico, torniamo tra un attimo con Alberto Airola, perché ovviamente dobbiamo parlare del motivo principale per cui si è candidato. Lei ha 42 anni, Airola? Sì, vado per i 43. Va per i 43, fortemente anti-TAV. Noi qui alla Zanzara siamo invece a favore di tutte le opere possibili e immaginabili. Vabbè, ma certo, quello è che vuole fare, la vita, no? Ma certo. Cioè, ci sono tante cose nella vita. Siamo qui, 800 24 00 24. Caro Parenzo, sai quanto voglio bene ad Enrico Letta? Esponente di punta del Partito Democratico, vice segretario, ma senti cosa ha detto sulla direzione del PD. Dimostrato vitalità, spinta al cambiamento. Vabbè che alcune cose bisogna dirle per forza, Dimostrato vitalità, spinta al cambiamento e grande responsabilità. E che messaggio agli elettori è arrivato forte e chiaro. Bene, avanti. A me mi è sembrato il funerale. Altro che il funerale. C'erano tutte facce da funerale. Altrimenti, altrimenti che si faceva a fare la direzione? Non si sarebbe fatta, già si parlava di ministri, di poltrone, presidente della Camera, presidente del Senato, presidente della Repubblica, sembrava un funerale, facce da funerale. Beh, per forza, ma è una valutazione politica questa cosa qua, politica. Ma Renzi se n'è andato poi a un certo punto. Beh, è numero uno Renzi, non si è mica fatto mettere in mezzo nella discussione insieme a Rosi Bindi, eccetera, eccetera. Ha detto che partecipava, è andato lì, e poi a un certo punto è uscito. Ha detto che partecipava, mica che parlava. A un certo punto se n'è andato via a gambe levate, scappato era, a gambe levate. Previsto, ma non è che me voleva partecipare a un funerale, scusa, abbi pazienza. È con noi un senatore piemontese del Movimento 5 Stelle, Alberto Airola, 42-43 anni. Lei non è vegano? No. No, sa perché adesso pare che sia di moda. Ho sentito che i microchip? Vabbè, parlava, no, neanche microchip, non li mangio perlomeno. Non li mangio, non pensa. Ma cos'è sta roba dei microchip? Ma questa è una teoria che spopola sul web, non so quanto. Lei ci crede oppure sono tutte stronzate? Guarda, io penso che ci controllano già abbastanza, sanno tutto, con i telefonini, con le carte di credito. Non c'è bisogno dei microchip, dice lei. Ma non lo so, penso di no. Poi, per carità, insomma. Ognuno ha le sue teorie, no? Ognuno ha le sue teorie. Ma secondo lei non è entrato qualche, tra 163 deputati adesso parlamentari, è normale che sia entrato qualche mattoide, no? O no? Beh, guardi, c'era scritto sulla maglietta di un mio amico una bellissima frase: da vicino nessuno è normale. Quindi penso che probabilmente su 163 ci sarà qualcuno un pochino più brillante, qualcuno un po' meno, ma insomma, ma anche da lontano in questo caso. Perlomeno mi sembra una percentuale minore di quella degli attuali, dell'attuale classe politica. Cioè ci sono meno pazzi degli altri, cioè, bravissimo, comunque ce ne sono meno di quanti ce ne sono, sicuramente fanno meno danni, dice lei. Sì, si diluiscono un po', ecco. Invece lì sono concentratissimi. Sento una cosa, ma lei mi dica la verità. Se fosse il caso di uscire dall'aula per consentire a Bersani di fare un governo, lo farebbe lei? No, io sarei compatto con le decisioni che abbiamo prese. Peraltro vi dirò che io è un po' di giorni che parlo, io abito in un quartiere popolare qua a Torino, e parlo con molto, vabbè, per forza, noi siamo partiti con internet e i banchetti nelle piazze, nei mercati. Però molta gente, tutti mi continuano a dire andate avanti così, non alleatevi, non concedete niente, mi raccomando, devono andarsene. Quindi mi sembra che ci sia un grosso appoggio popolare. Cioè mai fiducia a nessuno, nemmeno con qualche scamotaggio? No, neanche con gli scamotaggi. Senta, però mi dica quest'altra cosa. Secondo me, io lo sostengo da tempo, è vero, lei per carità è un essere pensante, 42 anni, 43 anni come gli altri, non è che siete da automi, dei robot nelle mani di qualcuno. Però politicamente, insomma, comandano due persone. Mi dica la verità, Airola, adesso... No, ma non è così, perché per esempio domenica quando siamo andati a questa riunione ho già rientrato a casa, ho già visto sul web che insomma in pratica ci avrebbero dato le indicazioni e noi obbedendo l'avremmo messo. Vabbè, un po' diciamo l'opinione di Grillo peserà, non è che uno si può alzare a dire no, scusi. Certo, e il fatto è che è identica alla mia, ecco, insomma io condivido, poi comunque abbiamo un programma, abbiamo firmato tutti un impegno su dei punti che condividiamo e quelli siamo rispettando. Quando Grillo si allontanerà in una maniera decisa da questa linea ne parleremo. Ma non è che si farà una rotazione anche tra i deputati oltre che tra i capigruppo? È previsto una rotazione dei deputati? No, potrebbe essere un'idea però, visto che non si sa quanto una rotazione... per un cittadino normale sia facile vivere quell'ambiente. Io le dico, sono preoccupato. È una cosa che è una grande emozione, per carità, tutto quanto, ma è anche un peso immenso per una persona. Dunque, si potrebbe fare normale. Anche questa cosa qua, rotazione tra i deputati, che ne so, ogni sei mesi, ogni anno. Diciamo che ci devono essere dei tempi, perché uno metà legislatura. Appena capisce qualcosa, poi se ne deve andare. Ma a parte che sarà difficile, perché non so quanto dura questo governo. Dura poco, dura poco questa legislatura. So. Senta, se dovesse arrivare con una proposta, Bersani, da domani noi proponiamo il blocco della costruzione della TAV, difficile perché il Partito Democratico ha sempre detto il contrario. Sì, esatto. Se dovesse presentare una proposta del genere, lei dice: vabbè, per me va benissimo, purché questa cosa si fermi, io sono disposto a votare una fiducia. Beh, è una cosa forte. Ma sarebbe un trappolone, lo sappiamo. Ma poi scusi, questi signori qua, 20 anni che lei ha visto, no, gli punti, hanno subito rilanciato la taglia alla politica. Sì. Hanno fatto una commissione, adesso l'ultimo governo Monti. Si stanno ingrillando. Per cercare di fare i tagli, sono stati 90 giorni, poi hanno alzato le braccia. Si stanno ingrillando. Questo però è buono, che riescano a mettere almeno nei programmi qualche punto, che li copiano, noi siamo contenti. In questo momento è per lisciarvi il pelo, diciamo la verità. Un po' sì, diciamo. Che c'è, Parenzo? Andare che c'è? Al voto sarebbe una sconfitta anche per voi, scusi. Perché no? Una sconfitta? Che gli frega loro? O volete andare al voto? Cosa, scusi? Caso... Tornare a votare, perché dovrebbe essere una sconfitta? No, non lo è, perché vinceremmo probabilmente e perché non siamo attaccati alla poltrona. Cioè, ecco, una delle battute di Bersani è stata: guardate che se finisce per noi, si va a casa, si va a casa tutti. E che no? Ci frega voi? Esatto, e quello è proprio la minaccia che nasce dalla sua paura. Cioè, la mia Senta, paura ma lei, il suo capogruppo ha detto delle cose sul fascismo. Capogruppo alla Camera, sì, il mio ha detto invece che avrebbe accettato, no, secondo i giornalisti, un governo tecnico. Sì, vabbè, quello lasciamo perdere, però mamma mia, guardi, i giornalisti sono... Vabbè, ogni tanto anche tutti, voi dite delle cose ambigue, anche uno noi, diciamo, può speculare su delle cose ambigue, non è che adesso i giornalisti sono tutti dei criminali. Però noi lo facciamo gratis, loro li pagano per adesso. Cioè in che senso, scusi? No, nel senso che un giornalista è pagato per scrivere la verità, noi per adesso non siamo ancora pagati per fare i politici. Capito, ma che vuol dire? Qual è la differenza? Non ho capito. No, nessuna, però voglio dire, se siamo cittadini normali, qualche sciocchezza può scappare. No? Invece i giornalisti dovrebbero scrivere... Il giornalista dovrebbe essere certificato. Perché Senta, il suo governo ideale, nel suo governo ideale chi c'è come Presidente del Consiglio? Grillo. Presidente del Consiglio, no, Grillo no. Come no? Grillo un portavoce. Ma no, ha sempre detto che non avrebbe fatto preso e si incalla, lo dice da sempre. Chi c'è? Non lo so, un presidente è una figura, ci vorrebbe qualcuno un po' un po' in gamba, ecco. Che ne so, non glielo so dire, dovremmo consultarci. Casaleggio? No, ma per carità. No, Casaleggio può fare il Gianni Letta, il grande consigliere, il grande consigliere può fare. Perché Grillo no? Uno si deve prendere pure delle responsabilità ogni tanto. Ma perché lui ha sempre detto che non sarebbe entrato in politica così. Ma cioè, mettici la faccia. Dobbiamo chiudere però. Io dico sì, guardi, sono anche, ho anche risposto alla Zanzara dopo tutte le polemiche. No, ma che polemiche. Le polemiche ci sono, fanno parte della vita. Senta, un'ultima cosa, Airola. Lei chi è che proprio al Senato proprio le dà fastidio incontrare? Perché lì si incontrano un sacco di... sacco di gente. Berlusconi è una roba, ma no, sì, sarà difficile. La mano a Berlusconi la stringerebbe? No, eh? se posso. Casini, pure Monti. No. Monti no, ma Monti avrà la mano freddissima. Casini un po' un fantasma, Casini. Un po' 31esimo anno di carriera politica, incredibile. Per un soffio, perché sennò potevamo anche risparmiarci. Vabbè. È entrato. Ma non abbiamo parlato del TAV. No, il TAV, no, sì, ho detto quella cosa là della TAV. Ah, sì, cosa. È vero, quella della fiducia. Della fiducia. No, comunque è un'opera veramente inutile. Vabbè, io lo so che lei sostiene che è inutile, ma questo lo davo per scontato. Cioè, certo. Ed è il motivo principale. Cosa vuole sapere? Se mettiamo le bombe, come diceva. No, ma chi lo vuole mettere? Abbiamo la pubblicità, grazie Airola. Se può dopo 5 minuti, ma non lo so se può lei. 800 24 00 24, giornale radio. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli un suo twist, e balli un suo twist, la zanzara twist. Una volta a polpaccio e poi all'altro. Diviso in tre capitoli: religione, 11 settembre, che sarebbe inside job, la massoneria alla fine, il controllo globale. Non so se lo sapete, ma in America hanno già iniziato a mettere i microchip all'interno del corpo umano per registrare, per mettere i soldi, e quindi è un controllo di tutta la popolazione. Quelle persone che se lo fanno iniettare non sanno a cosa vanno incontro. Io ho consultato diverse persone in America, gente che conosco, e nessuno si è fatto iniettare nulla, nessuno pensa di avere un microchip, a meno che un po' di nascosto di notte agenti del governo non stiano lì a mettere, no? A mettere questi microchip, Parenzo. Bisognerebbe sentire Lutwak, il signor Lutwak, però questi microchip. Io dico sempre una cosa, no? Io dico sempre una cosa. Tu sai chi ci avevamo, no? E chi ci abbiamo ancora? Tu lo sai, no? Adesso c'è quello del microchip. Prima c'era per esempio Isidori. C'era Isidori, amico mio. Dalla padella alla brace. Ma meglio il microchip forse di Isidori o no? Forse. Forse è più innocuo il microchip di Isidori, sì, forse sì. No, certamente. Innocui sono tutte e due. Comunque, avevamo Isidori e abbiamo anche un altro che dopo ti faccio ascoltare. Ma risentiamo ma qualche cosa di Isidori. Dai, una roba che mi ha colpito oggi. Voglio dirti questo, tu che sei appassionato cos'è, di calcio molto più di me. Il piano B di Bersani, cos'è che ti ha colpito? Un comunicato ufficiale, tu che sei appassionato di calcio, un comunicato ufficiale dell'Inter. Sì. A ricordo del presidente Chavez, amico, l'Inter. No, a ricordo, ma non ci posso credere, Chavez. Non è possibile, dai. Te lo giuro su ciò che odio più caro. Sito dell'Inter. L'Inter, amico mio, il signor Moratti. Il presidente Moratti e tutta la federazione. Ma perché avranno dei traffici di petrolio col Venezuela? Ma amico mio, l'Inter, il ricordo del signor. Ma cosa del signor Chavez? Il signor Moratti, perché? Isidori. Il carcere è un penitenziario, non è un villaggio di vacanza. Si deve scontare la sua pena prescritta, che gli aspetta. Lo sapeva prima fare il reato. Io ritengo, come Lega, di non uscire prima della sua pena irrogata. Grazie. Mi ha beccato. Ai, ai, questo in Parlamento, alle Iene. Cosa ne pensa, è una cosa che riguarda il sociale, dei matrimoni gay? Per carità, non me ne parla. Sono gente che per me stanno male, purtroppo non è curarli, per me non è normale. Ah, non sono normali, dice gli omosessuali? Non è normale, è nato sfortunato. Per me è una persona nata sfortunata. Se perché dice sfortunato? Perché non sappiamo se è uomo o donna. È nato sfortunato, non sappiamo se è uomo o donna, è nato sfortunato. Per carità questa gente, per carità questa gente. abbiamo ancora Raggi, che questa mattina ha dato un altro, ha fatto un altro esplorato al signor Milan. La mattina dal signor Milan, questa mattina Razzi. Sentiamo ma qualche passaggio. Ma perché anche signor Milan, che così è una brava persona, si confonde con questa cosa? Ma è perché si zanzarizza anche lui ogni tanto, no? Si zanzarizza ogni tanto. A Milan. No, voglio dire, quando vedremo Razzi ospite al forum, al Focus Economia, lì sarà tutto, hashtag tutto finito. Quando sentiremo Razzi... Focus, non, farà mai. Forum, non forum. Al no, ho detto sì, quando vedremo il signor Barisone, dal mio amico Barisone, ma non lo farà mai il signor Barisone. Barisone è una persona per Razzi, bene. Razzi si potrebbe zanzarizzare anche lui più di quanto non si sia già zanzarizzato. Comunque, Razzi, sentite. E guarda che ho ricevuto centinaia di posta elettronica che mi hanno complimentato dicendo noi abbiamo dato il voto a te e di quello che dice, hai fatto bene. Sì, hai fatto bene. Ho saputo l'insofferenza che avevi dentro quel partito. Mi hanno complimentato, capito? Ho ricevuto centinaia di posta elettronica. Vabbè, sentiamo TG3 come affronta la seduta psicanalitica in casa Partito Democratico. Ai titoli. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Bersani, 8 punti per l'azione di governo, riformare la politica, no al PDL. Con Grillo, confronto senza corteggiamenti, la direzione PD approva. Renzi alla direzione PD se ne va dopo l'intervento di Bersani, D'Alema, Berlusconi ostacolo all'unità nazionale, Alfano, il PD rifletta, andiamo a sbattere. Monti, meglio tornare alle urne che un governo antieuropeo, l'Italia può essere guidata, ma neanche Grillo è in grado di risolvere i problemi. A gennaio nuovo crollo dei consumi a livelli di 9 anni fa, il presidente di Confindustria Squinzi, andare al voto sarebbe uno shock. Gli negano un finanziamento, imprenditore uccide a Perugia 2 impiegate regionali e si toglie la vita, il padre al TG3 era depresso da anni. Venezuela in lacrime per la morte di Chavez, decretati 7 giorni di lutto, venerdì funerali a Caracas, tra un mese il voto. Ancora da decidere la data del conclave, richiamo la riservatezza, annullato il briefing dei cardinali americani. Famiglia cristiana, basta IOR. Eccoci qui, abbiamo sempre con noi il senatore Alberto Airola. Lei come vuole essere chiamato, signor Airola? Cittadino. Eletto al Senato, ma non senatore, non... ci sono tante parole che hanno perso significato, compresa la parola responsabilità che tanto si sente in questi giorni. Ma senatore le fa... è un termine che il popolo lei non sopporta, le fa schifo, ma no, come termine, per senatore. Carità, ma no, per carità, sono parole, il problema è che perdono il loro significato, diventano ridondanti, allora uno dice vabbè cittadino, anche se sa un po' di rivoluzione francese, ma insomma. Ma lei non lo eliminerebbe il Senato, per esempio? Io sì, personalmente. Sì, ma forse sì, perché sì. In effetti cioè, allunga i processi legislativi in maniera incredibile. Ma lo vedi, Parenzo? Qui c'è la rivoluzione in atto. Io dico ma di no, tirare giù la Clare sul Senato. Ma tu ti rendi conto che noi abbiamo il passaggio di una legge da una parte all'altra del Parlamento? Navicella, ma è una cosa certo. assurda. Ma uno diciamo fa una cosa sempre, con scritto, mette davanti una bella targhetta, Fondazione sì, Senato. Sì. Ma quei certo, dipendenti ma che manteniamo, per carità. Farlo. Ma qualcuno deve fare che? Scusa, non ho capito. Che deve leggi, fare? Loro, quello che io non c'è capisco. La camera, loro, c'è la Camera. Ma loro devono approvare questa riforma costituzionale. E vabbè, ma quello. Non possono. Cioè, le regole oggi sono quelle. Dopodiché. Ma il non, è che Airola ha detto, mio, non è che Airola ha detto che bisogna prendere il Senato e bombardarlo. Ma, cioè, ma no, esatto. Ma devono comunque eleggere. Ma hai ragione. Voglio sapere, eleggeranno il presidente di Camera? Ma certo, il presidente del no? Senato lo eleggeranno. Parteciperanno alle elezioni. Oppure uscire loro, dall'aula. Oppure uscire dall'aula. Oppure voteranno un boscimano come presidente. Siete del Senato, non lo so. Allora, vi interessa oppure Mario, sono solo poltrone? Perché per me ce l'ha con i boscimani, Parenzi? Vabbè, perché i boscimani sono morte con i boscimani. Ce l'ho a morte perché quando Casaleggio dice che stavano meglio gli irochesi che dovevano lavorare un'ora al giorno per nutrirsi, mica sarà d'accordo che stanno meglio i boscimani di noi. Forse per lui un'ora al giorno è troppo, dice. Cioè, anche per lei bisogna lavorare. Per carità, anche per lei bisogna lavorare il meno possibile? Ma diciamo che adesso si lavora un po' troppo, in effetti. Lo sa che nella mia categoria, quella dei lavoratori del cinema, sì, sono state proposte 65 ore settimanali. Ma lì si lavora troppo poco, quello è il problema, no? Non è che si lavora date, che non c'è lavoro pure là. Dipende che lavoro uno fa. Certo, se uno fa il tecnico, se uno fa l'attore, magari è un po' più tranquillo. Scusi, ma secondo lei le ore ideali a settimana per lavorare, quante sono? Non lo so. 25? Ma sì, tra le 25 e le 35 potrebbero essere, per potersi godere la vita, la famiglia. Cioè bisogna tendere verso gli irochesi, come dice Casaleggio nel libro. Lei l'ha letto il libro, immagino di sì, la Bibbia. No, non l'ho ancora letto. E beh, questo è grave, potrebbe essere. È grave, ha ragione. Potrebbe esserci una punizione gravissima. Le dirò che, insomma, prepararsi, cioè, non è facile in questo periodo, poi uno lavora anche, adesso chiaramente non lavorerò più. Beh, però i fondamentali del Senato li i fondamentali del Senato li sappiamo, immagino, no? Adesso non voglio fare le solite cose, Rola, perché altrimenti... Se volete, sì, facciamo l'interrogazioncina. No, lei si è preparato, è inutile, non la facciamo. No, ma mi interessa di più sapere se lei condivide anche... Ma l'ultimo presidente, chi è stato? L'ultimo presidente del Senato, chi è stato? L'ultimo presidente del Senato? Sì. L'ultimo presidente, Schifani. Ecco, bravo. No, bene. E quello bene. Prima? Perché adesso prima di Schifani, certo, andiamo in là col tempo. Beh, no, che in là col tempo? 2006? Un anno, non me lo ricordo. Lo sai che non me lo ricordo? In questo momento c'è un blackout pure io, Parenzo, lo sai? Vi do una mano, comprate una vocale o una consonante? Ah, sì, ho capito chi era. Consonante. Sì, Marini. Frank Marini. Comunque lei lo chiuderebbe, io pure lo chiuderei il Senato. Non c'è dubbio. Sì, poi ne parliamo, via, così non si... Senta, oggi Grillo ha detto una cosa, il PD ha più cose in comune con il PDL che col 5 Stelle, lei è d'accordo? Decisamente sì. Cioè, per lei, per esempio, Berlusconi e Bersani pari sono? Iletta, per esempio, ce l'hanno in comune, no? Ah, Iletta ce l'hanno in comune. Però per lei politicamente Berlusconi e Bersani sono uguali? Mi sembra che Berlusconi sia più scaltro. Però sono uguali politicamente, cioè non fa molta differenza, lei sono espressi. Ma per me no, hanno in tutti questi 20 anni, quando avevano l'occasione, non hanno fatto le scelte giuste, se no non sarei qua, guardi, me ne stavo a fare il mio lavoro, che era uno dei lavori più belli al mondo, il problema è che è finita la festa per tutti. Però dica al capogruppo della Camera di non utilizzare quella parola sul fascismo buono, lo dico. No, glielo dirò. Ha detto una stronzata, diciamo. Ma diciamo... Penso che sia abbastanza contrita. Poi le dirò che io non avrei mai scritto quello, però insomma è vero anche che c'è stata montata su una faccenda come in altre situazioni. Però scusi, Rola, che è normale che sia questo. Uno dice che a un certo punto, all'inizio del fascismo, nel 19, c'era il senso della famiglia, il senso dello Stato. Lei può immaginare che non ha senso, no? Ma guardi, io non lo direi mai, perché per me è il fascismo, però noi abbiamo anche una visione storica, insomma, ben chiara, no? Voglio dire, uno potrebbe anche intendere che all'inizio il fascismo si era posto con certi, almeno per la società italiana, con certi principi. Sì, però sì, noi chiaramente sappiamo che questi principi erano una bandiera, una propaganda. La propaganda è nata con Mussolini prima ancora che con Goebbels. Certo. Erano molto... Scusi un attimo, lei contro la TAV ha mai tirato un sasso, un poliziotto? Ha mai fatto manifestazioni violente? No, guardi, io intanto ho fatto servizio civile in una parrocchia, non vi dico, sono un pacifista, tirerei mai un sasso. Poi conosco... Ma è sbagliata la violenza, lo dica, è sbagliata la violenza, qualsiasi forma di violenza... È sbagliata la violenza. Per opporsi alla TAV, per opporsi anche se... Inutile, le dirò, è inutile, bene, perché adesso che andremo in Parlamento ci sono delle argomentazioni veramente più forti che purtroppo però non potevano essere usate, perché comunque bisogna in qualche modo arrivare alla stanza dei però bottoni, scusi, per bloccare quel cantiere, fino a dove ci si può spingere secondo lei, per bloccare il cantiere che c'è? Ma guardi, le ribalterei la domanda, per imporre una cosa a un popolo, fino a dove ci si può spingere? Vabbè, ma quello è un altro discorso. No, perché sono stati i governi democratici che hanno approvato quell'opera. Sì, è mancata la politica, veramente. Però Irola, la domanda è chiara, dove ci si può spingere? No, a però è giusto quello che ha detto lei. Ha detto mai violenza, comunque mai violenza. No, ma io sono contrario, ma assolutamente. Ma poi basta, siamo un popolo già fratricida, cioè basta con la violenza, usiamo la testa, cerchiamo di organizzarci e riprendiamoci questo paese. Grazie Rola, presto, grazie. Siete stati cortesissimi, grazie, ciao, buona trasmissione. Quando mi dicono così mi sento male, però l'abbraccio lo stesso. 800 24 00 24, abbiamo gli ascoltatori tra pochissimo. Borsa. Tutti a casa! Non so se lo sapete, ma in America hanno già iniziato a mettere i microchip all'interno del corpo umano per registrare, per mettere i soldi, e quindi è un controllo di tutta la popolazione. Quelle persone che se lo fanno iniettare non sanno a cosa vanno incontro. La matriosca è laica. Microchip per tutti. Io sì, voglio essere controllato. E qual è il problema se mi controllano, Parenzo? Non ho capito, qual è il problema? Voglio essere controllato col microchip. Ma la cosa che ma tu sai l'ultima sempre del signor Casaleggio, del guru che Casaleggio, ha fatto, che ha detto dice di nuovo? Che si può, cioè ogni giorno dare una chicca del Casaleggio pensiero, dice si può adottare a distanza persino un alveare, controllando attraverso una webcam, vedere ciò che si mangia e comprare i prodotti direttamente da chi li coltiva. Ma perché devo comprare un alveare e controllarlo con una webcam? Ma non c'è un cazzo da fare, io devo lavorare. Cosa Bersani, mi non c'è nessun piano B. Sentiamo. Un alveare. Abbiamo davanti un percorso certamente molto, molto difficile. E io qui voglio essere chiaro. Noi qui da questa riunione di ipotesi B non ne sono venute. È venuta una proposta, un'iniziativa A. Dopodiché è legittimo vedere le difficoltà. A, B. A è incarico a Bersani per un tentativo di accordo con Grillo, lo spieghiamo. B è il governo del presidente, eccetera, eccetera. Poi rivendica: abbiamo più parlamentari di tutti. Abbiamo più parlamentari di tutti. Lo so che mentre noi non pensiamo a ipotesi B, c'è mezzo mondo che pensa a ipotesi B. Ma questo mezzo mondo, noi diciamo, non è che nelle vostre fantasie pensate che poi noi scompariamo dalla... No, perché noi abbiamo il triplo dei deputati di Grillo e il doppio di quelli della destra. Quindi siamo in condizione, non è che noi scompariamo. Che tengono lontane le zanzare. Ma che sta... È laica, la matriosca è laica e suona con maestria. Beh, come dimenticare Don Gallo che subisce degli abusi sessuali di ieri. Don Gallo, rivelazione alla Zanzara. Ho avuto delle tentativi di violenza che io ho respinto. Sono sempre stato un ribelle. Da prete solo un vescovo aveva avuto qualche tentativo, il quale l'ho mandato a far culo. Non era tanto importante, è già morto, sia in cielo, in paradiso. No, aveva avuto dei tentativi e ho detto no, guarda, sta a sentire eccellenza. E se vuoi andiamo a puttane tutti e due, però. Andrea da Napoli, 800 24 00 24. Andrea, dica. Pronto? Vai, vada. Allora, io ho votato Grillo. No, lei ha il viva voce innanzitutto, Andrea. Ecco. Auricolare. Vada. O meglio? Sì, sì, allora, vada. Io ho votato Grillo. Sì. O meglio, ho votato Movimento 5 Stelle. Sì. Ma non avrei mai votato Grillo, perché è comunque che è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. È la stessa cosa invece. Non è la stessa cosa. Come perché no. Votare Movimento 5 Stelle significava votare qualcosa che fosse una rottura rispetto al pantano che ha voluto. Vabbè, allora? Allora, Grillo sta tirando troppo la corda. Non sa, perché comunque parliamo con tanti amici che lo hanno votato, che se dovesse arrivare alla rottura, dovesse andare di nuovo all'elezione e il DS dovesse presentare Renzi, Grillo non prende più un voto, prende forse il 5-10% di quello che ha preso. Vabbè, questo adesso mi sembra un po' presto per dirlo, Andrea. Beh, però noi che siamo sempre assieme, tanti amici, parliamo e comunemente abbiamo deciso, pur avendo votato a sinistra il DS gli anni precedenti, di votare il 5 Stelle, le dico che al momento un sacco di gente non la vedrebbe più. Ma perché? Perché non lo vedrebbe più dopo una settimana, secondo lei? Perché? Perché il motivo per cui è stato votato Grillo era rappresentare un elemento di rottura. E allora? Sulle porcherie fatte. Ah, cioè lei dice che se fa l'accordo con Bersani nessuno lo vota? Lui l'accordo con Bersani non lo fa. E allora? Perché sta facendo... Voi la conoscete la storiella dell'elezione del capo del corpo umano? No, non la conosciamo. si riuniscono gli ordini, sì. Stabilizza il cervello e il cuore. A un certo punto si fanno le elezioni, sì. E lo sfintere presenta a sfregio una sua lista. Lo sfintere gli dicono: ma noi siamo il cervello, il cuore, adesso tu sei lo sfintere, non puoi presentare la tua lista, chi sei tu? Sì. Si fanno le elezioni, più o meno giustamente vince il cervello. Lo sfintere che fa? Si chiude. Sì. Basta un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana. Il corpo aveva perso tutte le sue funzioni, febbre a allora? 42. E fu così che lo sfintere diventò il capo. Grillo, probabilmente in mente una situazione del genere, si sta comportando come le sfintere. Però gli italiani fessi non sono. Io non ho quando capito, lei ha votato 5 Stelle, perché non lo vuole più votare adesso? A parte lo sfintere, la testa, il cervello, eccetera. Perché quello che sta facendo non è quello che gli hanno chiesto. Ma che ne sa lei? Che ne sa lei? Che ne sa lei? Che cosa, ma che cosa gli hanno chiesto? Non ho capito. Che cosa gli avrebbero chiesto invece? Di fare un accordo con Bersani? No. Assolutamente no. E allora? A Grillo è stato chiesto di rappresentare un elemento di rottura. E quello sta facendo? No, non lo sta facendo. Ma è passata una settimana, manco sono entrato in Parlamento. Andrea, vabbè, chiaro dalla provincia di Brindisi. Io non capisco. Se questo ha votato 5 Stelle, mi faccio suora, senza auricolare, senza viva voce, perché a Parenzo lo devo fare spellicare stasera. Mi sente bene? Sì, la sento, sì. La sentiamo. Mi sente bene. Sì. Lei è curioso, dottor Cruciani, sapere perché mi chiamo Chiaro? Beh, se me lo vuole dire, non me ne frega nulla, però se me lo vuole dire... Va. È fondamentale, diciamo. Però. Perché sono nato il 12 agosto, sì. Il giorno dopo Santa Chiara, sì. Però alle 5 di mattina, ero il nome di San... Redegonda era un po' troppo, allora anziché Chiara, ma lei chiamato Chiara. Vabbè. Allora io le chiedo non perché Grillo è nostra testa a confronto dei Bersani. Parenzo, ascoltami bene, il tuo amico Bersani, sì. Dal pascolo del monte, quello che sa far Bersani è tagliare la mortadella di Prodi, che proviene dal monte pascolato anche da Matteo Renzi, caro Parenzo. Hanno aperto. Non capisco perché non sono passati a fare la cultura oggi. Parenzo, ascolta, venerdì devo andare a Radio Menichino di Milano. Non capisco perché l'hanno lasciata in libertà in uno stato simile. È una vergogna, lo dico per lei. Il sistema sanitario nazionale è al collasso. È normale che non capisci, ma ti spellichi, mo. Stammi a sentire. Io devo andare a Radio Menichino venerdì a fare una visita. Per fare la poesia in rima. Ecco, appunto, insomma. La visita mi pare, mi pare che la visita sia necessaria. Ho Giulio Barbato, mi deve stare a ascoltare e dammi un consiglio, Parenza. Il Gardanella è spodumata la mortadella, l'ho detto bene, Parenza? Vabbè, siamo alla necessità di un intervento immediato, chiaro? Ascolta questa cosa, Parenza. Parenza, ascolta questa cosa, Parenza. Sì, chiaro. Amici 5 Stelle a Milano, ho inaugurato l'Accademia della Lingua Italiana. Io sono un elettore, io del Movimento 5 Stelle, dopo l'Andrea ha chiamato prima. Io. Lei ha votato come me, se rende conto o no? Vabbè, comunque. Forse in parte, poi ci vediamo, ben invitata anche lei all'Accademia della Lingua Italiana, relativa alla parola democrazia. E i primi invitati sono gli amici del Movimento 5 Stelle, anche il senatore lì che ha parlato prima. Vabbè. Non lo conosce bene la lingua italiana, la parola democrazia. Allora gli amici 5 Stelle dico che è estremamente urgente capire, far capire questo valore. È urgente. È urgente, è molto urgente. Cosa è successo a Milano con Ambrosoli? No, chiaro, è urgente. Io penso che sia urgente l'arrivo di alcune persone in camice bianco. La camice bianco non che hanno voluto far vincere Ambrosoli. Sì, sì, ma non c'è dubbio, guardi. Vengono presto. Non si preoccupi, vengono presto. Parte degli elettori 5 Stelle avrebbero voluto Ambrosoli. Aiutatelo. L'elenco, la metà di quegli elettori votavano solo la lista, ma non la candidata presidente, ma stava la metà di quei voti. Vabbè, ma è roba vecchia, roba passata. Grazie. Andrea da Trento, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Vada. Buonasera signor Parenzo, anch'io sono un elettore pentito del Movimento 5 Stelle. Ma che vuol dire pentito dopo una settimana? Allora siete matti, cioè siete peggio di me che ogni tanto mi pento quando esco un secondo dopo. Allora devo dire innanzitutto che è colpa mia, nel senso che dovevo informarmi un po' meglio prima. Perché io avevo Ma come perché? Faro, che cos'è che l'ha fatta pentire? Mi spieghi? Adesso glielo spiego. Io dovevo partecipare ai gruppi del Movimento 5 Stelle prima delle elezioni, non dopo. E avevo come faro illuminante Grillo sulle piazze. Sì. Quindi a pancia ho votato per questa grande rottura che era stata invocata. Poi però sono successe un paio di cose. La prima, ho cominciato a partecipare appunto a questi incontri e ho visto con mano un paio di candidati che poi adesso siederanno alla Camera. E allora? E in secondo luogo ho cominciato a vedere anche in televisione come questi signori si presentano, questi ragazzotti. E in più sono stato aiutato anche da voi con queste letture di Casaleggio e quant'altro che sono. Ma io non ho capito, ma fino all'altro giorno lei non le ha lette le cose? Assolutamente no. Adesso ho capito, si presentano come anticlericali facendosene vanto. Sono molti anticlericali, sì, tra quelli eletti, gente che si è sbattezzata, eccetera. Va bene, uno che ho conosciuto io l'altro giorno si professa come presidente nazionale o regionale, non ricordo, degli atei. Quest'altro che avete fatto sentire voi prima ha detto che ha addirittura il certificato antichiesa o qualcosa del genere. No, uno questo dice che si è sbattezzato, punto, non è che c'ha il certificato antichiesa. Vabbè, no, ma ci sono personaggi di tutti i tipi, ma avevamo personaggi assurdi anche prima, non è che non ci fossero, D'accordo, infatti ne avete fatto appena sentire due o tre che mi hanno gettato in assoluta confusione. È chiaro che su 160 che sono in Parlamento, senza una linea particolarmente comune, se non su quei 4-5 punti, il fatto che si presentino come vegani, come a favore della protezione animali, che sono cose che secondo me il 25% degli elettori italiani se ne fotte un po' poco. Ho capito, però là bisogna informarsi. Se lei era attento a queste cose, ognuno vota poi per mille motivi. Se uno era attento a questi dettagli, bisogna informarsi anche prima. Non scordiamoci che c'era anche il mitico senatore Bartolomeo Pepe, tifoso di Chavez, prima che morisse ovviamente lo voleva portare a Napoli, senatore del 5 Stelle, gli aveva regalato anche il cacio cavallo, te lo ricordi Parenzo? Sì, il cacio cavallo, no, forse quello che gli hanno inoculato è il cacio cavallo di Pepe, mortale. Beh, no, una giornata ma è con noi Massimo Ghini, buonasera. Come andiamo signor Ghini, è molto deluso? Insomma, sentivo che parlavate di cavallo, mi sembra che il livello non è altissimo da questo punto di vista, quindi la delusione c'è, ma è contenuta poi rispetto ai tipi di ragionamenti che si fanno. Io aggiungerei solo una cosa a quello che dicevo prima, dico, d'altra parte passiamo da un Parlamento che ha votato a maggioranza, no? La nipote di Mubarak, voglio dire, io spesso dico che nemmeno un film di Natale arriva a una tale raffinatezza comica. Per cui lei dice uno che c'ha, che dice che bisogna, che in America mettono i microchip, l'ha vista quella, sì, l'ha sentita quella dei microchip, sì. Sì. Beh, ma insomma, voglio dire, nel mondo globale siamo pronti a tutto, sentiamo cose... Cioè, veramente pazzesche. Però veramente peggio, pazzesche. Peggio della nipote di Mubarak, le dice non si può fare. Beh, insomma, in un Parlamento del genere, di uno dei 7 paesi più industrializzati del mondo, gli 8 paesi più industrializzati del mondo, insomma, arrivare a quel livello lì veramente... L'ho viste tante, credo, nella mia non più giovane età, però insomma arrivare a quello mi sembrava veramente il massimo. E dunque, lei dice, vabbè, questi grillini saranno un po' spaesati, ogni tanto qualcuno dice qualche stupidaggine, sono ingenui, uno dice di essere vegano, l'altro i microchip in America che ci mettono sotto e la teoria del Zeitgeist, però non scordiamoci quello che c'era prima, che è la mia teoria, Parenzo, è la mia teoria. No, questo è d'accordo, ma non è che va di male in peggio. Cioè, peggio della nipote di Mubarak non ci può essere, per cui becchiamoci pure questi grillini. Ma secondo lei, che è stato testimonial, o comunque insomma ha fatto il tifo per Bersani, adesso non so, testimonial, fu portato in un porta a porta come una sorta di testimonial di Bersani, no? Se ne pente, no, Ghini, no? Ma insomma, in quell'occasione ho vinto, per cui non credo di avere molti primarie. Motivi per perdermi. Ma insomma, erano importanti anche quelle in quel momento lì. Vabbè, però bisogna vincere la guerra, Ghini. Ma quello sicuramente. Ma d'altra parte, se avessi scelto questo tipo di idea, forse tutta la vita avrei militato da un'altra parte. Qualcuno che fa lo stesso mio mestiere ha fatto delle scelte sicuramente più oculate delle mie. Io sono un militante da sempre, quindi la gente lo sa, non è che casco dal pero adesso. Per cui ho fatto sempre delle scelte, devo dire, molto difficili in questo paese, perché quando si sceglie una militanza a sinistra si sa che si deve soffrire. Vengo da una storia nel mondo della cultura e dello spettacolo, non troppo. Il mondo dello spettacolo e della cultura è stato sempre targato a sinistra, signor Ghini, non è che... Ma questo principalmente perché c'è stata sempre una maggiore attenzione. D'altra parte, il livello culturale della destra è quello che è. Se forse avessero avuto più attenzione... Cioè a destra sono più ignoranti, dice lei, in genere. Ma insomma, generalmente le dimostrazioni non mi sembra che siano state poi in un altro senso. Non ma sono geni. Generalizzare, voglio dire. Non sono geni. Un certo tipo di mentalità politica che è sempre quella cioè più facile. Cioè la cultura sta a sinistra. Cioè la cultura sta a sinistra, questo oggettivamente. La cultura sta drammaticamente a sinistra, perché poi è la stessa cultura che è molto difficile da gestire in tutti i sensi. Voglio dire, se poi siamo ridotti, come si dicevano i latini, faccio pure una citazione da liceale orrendo, cioè mala tempora currunt, veri, perché... Se poi oggi siamo ridotti a sentire un comico che guida una cosa, altri un premio Nobel attore che fa una cosa, me che sono l'ultimo della carretta, che viene sentito come opinion. Opinion. Lei è stato uno che ha fatto il testimonial di Bersani durante le primarie, vota a sinistra, siccome adesso il Partito Democratico... è stato consigliere comunale. La militanza è una cosa... Ma non è che siamo ridotti ad ascoltare lei, allora, non si butti giù così... No. Anzi, io mi tengo molto alto, devo appunto, dire, dal suo punto di vista, per appunto. Cui... Ma fosse per lei, lo farebbe domani l'accordo con Grillo o no? Cioè, oppure lo si sta corteggiando un po' troppo? Io quello che direi, vedete, è lo scambio delle situazioni. Cioè, adesso mi sembra che da parte dei giornalisti, tutto una puntata, ci sia poi la ricerca, come sempre, del fenomeno per parlare di determinate cose. Oggi io credo alla luce, non voglio trovare scappatoie facili, ma insomma, alla luce anche di quello che è successo oggi a Perugia, di una situazione drammatica che c'è in Puglia, cioè del paese che sta in una situazione di schizofrenia e di tensione altissima. Però non mi faccia uno come uno di quei politici che sono intervenuti oggi alla direzione che dice io non sto parlando di colpi, io sto parlando di responsabilità, che è ben diverso come ragionamento. Cioè oggi sento di avere ancora di più una responsabilità, cioè che è quella di dire a che cosa stiamo andando incontro e quali sono le soluzioni. Allora, mi piacerebbe molto, e Beppe, che conosco da tanti anni, che stimo come attore, che stimo anche dal punto di vista politico, perché comunque si è assunto la responsabilità, che si faccia vedere in faccia. Cioè, non c'è bisogno di avere manifestazioni di quel tipo là che in qualche maniera non ci aiuta. Cioè, incontri Bersani, si faccia vedere, partecipi a quello che vuole, si parli in Parlamento, visto che esiste il Parlamento. Il punto è, sappiamo, proviamo a essere diretti e sinceri, cioè qual è la soluzione a tutto questo? I numeri non ci sono per avere la maggioranza. Le possibilità di fare il governo con centrodestra abbiamo detto che non ci sono. E oggi bisogna ragionare. O qualcuno prende una decisione, vedi Presidente della Repubblica, toccherà a lui, altri si facciano avanti dicendo esattamente cosa dobbiamo fare. Abbia senso di responsabilità, Grillo. Tutti, non solo Grillo. Okay, ma non le pare strano, scusi un attimo Ghini, non le pare strano che Bersani, dopo aver dato del fascista Grillo, insomma, durante la campagna elettorale, adesso lo insegue dicendo dobbiamo fare proposte più radicali che vadano incontro a quelle cose lì? Uno pensa, vabbè, ma è tutta una finta allora. Cioè... Ma io devo dire che in campagna elettorale tutti dicono tutto, perché insomma mi sembra che la prima uscita che c'è avuto responsabile al Senato da questo punto di vista tocchi proprio quegli argomenti lì, quindi credo che purtroppo, torno a ripetere, ma la tempora currunt, c'è una bella confusione, insomma, sia da una parte perché crollano, come dire, no? Ma lei non ha mai lavorato con Grillo? No, per me è molto difficile, perché Beppe ha fatto pochi film, per il resto è un monologante da solo, quindi no, conosco personalmente Beppe da tanti anni, perché facendo lo stesso mestiere occasioni abbiamo avute, ma insomma... Gli faccia un appello alla responsabilità, incontri Bersani, trovatevi d'accordo, trovate un accordo, che ne so, inventiamoci qualcosa. Incontrato Fico, perché loro si stanno incontrando peraltro in un albergo che è sulla stessa strada di casa mia, mi ha fatto molto ridere questa cosa, e parlandogli, guardandolo in faccia, visto che ci conosciamo, come dire, tutti e due. Fico è quello del napoletano, no? Sì, è napoletano, come tanti, è entrato alla camera, se non sbaglio. Certo. Sì. E gli ho detto proprio questo, dico guarda che ti parlo con un senso di responsabilità di chi in qualche maniera, se ci ha messo la faccia, un motivo ce l'aveva, perché insomma... non è che faccio la politica per diventare famoso, ho già di mio e mi accontento. E lui cosa ha detto? No, mi stavo a sentire, come ho detto, noi in Parlamento saremmo pronti a parlare, questo è quello che dico, e che non è niente di che, né nemmeno uno scoop geniale. Il punto è che credo che ognuno di noi debba avere un grande senso di responsabilità e portare da un cucchino un serbatoio d'acqua, insomma, all'interno quello, di questa cisterna, perché sennò che facciamo? A Grillo non gliene frega niente, questa è la realtà. No, pensa che i partiti siano finiti, che li vuole scardinare, punto. Voglio capire solo la soluzione. A questo punto sono pronto a prendermi, come dire, un badile e andare a scavare dove vuole, ma il punto è capire esattamente che cosa dobbiamo sa fare. Cosa ha detto oggi, sa cosa ha detto oggi Grillo? Che in realtà il PD ha più punti in comune col PDL che con il Movimento 5 Stelle. Questo ha detto. Può dire quello che vuole, torno a ripetere. Io quello che mi chiedo è che davanti a un paese che soffre, ognuno deve avere le sue responsabilità. Senta, per Bersani è finita? Per Bersani è finita? D'altra parte, voglio dire, dal punto di vista, come dire, legislativo, legale, quello che è, toccherà a lui, perché credo che il presidente lo debba in qualche maniera interpellare. E poi, come è successo in politica tante volte, se non tocca a lui toccherà a qualcun altro, insomma, mi sembra una roba così difficile. Però insomma, siccome fino a pochi giorni fa era, come dire, amato e sostenuto, a me sembra che la persona incorrettamente ha fatto quello che ha fatto, poi ha sbagliato. Adesso sono tutti facili a fare considerazioni. Lei non lo molla, insomma, non lo molla. Vabbè, grazie Ghini, a presto. Non lo mollo, ho stima di una persona, poi voglio vedere gli altri che cosa sanno fare. Sono pronto. Grazie. Bene, siamo qui, 800 24 00 24. Marco ci chiama da Milano. Marco da Milano, buonasera. Che non è Marco da Milano, come dice sempre Parenzo, Marco da Milano dell'Espresso, ma è l'ascoltatore Marco da Milano. Ti ho anticipato, Parenzo, se no dicevi chi è Marco da Milano? No, è Marco. No, pensavo fosse appunto l'ottimo Marco da Milano. E invece è un ascoltatore che si chiama Marco e chiama da Milano. Marco, comunque, che chiama. Ricordati che la cosa importante, secondo il Casaleggio Pensiero, è che il leader, la parola leader è una parola del passato, una parola sporca, una parola deviata, Casaleggio. Così ha scritto? Leader, sì, sulla parola. Ma quello che hai votato, adesso voglio dire, hai tu stai compulsando, stai compulsando il leader. No, adesso io comunque ho appena adottato un alveare. E voglio controllarlo attraverso una webcam. Tra l'altro, se avessero messo una webcam dentro il busto di Almirante, non sarebbero mesi che siamo qui a cercarlo. Ma quindi, non faccio il cretino. No, Marco, capito, dica. Adottare il busto di Almirante con una webcam. Buonasera. Dica. Beh, innanzitutto leader, in effetti è una parola un po' strana. Vabbè, adesso. Però volevo che mondo è mondo in politica esiste la leadership, il leader esiste, insomma, diciamo la verità, insomma, sì, sono leader anche loro, Grillo e Casaleggio, non diciamo stupidaggini, dai, su. È vero, volevo raccontarvi questo, io sono un elettore del PD pentito. Pure lei, tutti pentiti. Ieri sera sono andato a una riunione organizzata dal PD della mia zona, a Milano, perché in effetti sono rimasto affascinato, provenendo dal PD, dal Movimento 5 Stelle. Allora volevo andare a sentire loro che cosa dicessero, che risposte avevano. Sì. Sono arrivato alle 9, orario d'inizio, non c'era l'eletto della zona, c'erano 15 persone, età media 65, sciarpe rosse, canzoni popolari che uscivano da... così uno di quei vecchi musicassette. Mazza, che tristezza, ma che era? Che posto era? Vicino a dietro San Siro, a Bonola. Ma lei non c'aveva un cazzo da fare ieri sera, uscito per andare alla sezione del PD a farsi venire la tristezza addosso. Ma non mi dica niente, c'era un mio amico romano carissimo che parte giovedì, va in Brasile per un contratto di 2 anni, passa a Milano fuori con mia moglie a cena in un posto bellissimo e mi ha insultato. Comunque sono arrivato lì, tristezza è stata tanta nel vedere queste facce, era dentro una mobile school, non so se avete presente qui, e si faceva fatica a entrare, di fianco c'era una sala e c'era una lezione di tango in questa cooperativa, mi sono intristito, me ne sono andato, sono passate le facce, lo so, perché lo io volevo chiedergli questo, perché Grillo mi sembra che abbia spostato avanti l'asticella del possibile, cioè io ho votato il PD dicendo... bravi, hanno fatto le primarie, io ho votato Renzi poi, hanno fatto le altre primarie, ma non ho pensato tutto quello che non hanno fatto, legge elettorale, costi della politica, dicendo adesso che si... no, allora la priorità è l'economia, cioè traducendo in maniera un po' così, hanno fatto l'IMU e non hanno fatto tutte quelle robe lì. Vabbè, ho capito allora... benissimo. Importante è che lei, la cosa fondamentale mi sembra, lei ha visto in faccia la tristezza, giusto? Sì, veramente. Ne sono uscito, sono andato a mangiare dopo, li ho raggiunti, ho mangiato, abbiamo brindato. Vabbè, grazie uscito, Marco, ma... grazie. Paolo da Brescia, buonasera Paolo. Buonasera. Volevo chiedere, secondo voi Grillo non sembra, con le dovute differenze ovviamente, l'antitesi del fascismo, nel senso che... In che senso l'antitesi, scusi, non ho capito. Che vuol dire l'antitesi del fascismo? Paolo, mi dica delle cose normali alle 8.03 con la gente che sta in macchina incazzata nera, che si vuole un po' divertire. Ma che vuol dire l'antitesi del fascismo? Ma no, allora, non si può parlare male dei grillini perché già a chiamarli grillini si incazzano. Io ascolto anche... Ma non l'antitesi, l'antitesi è un'altra cosa, l'opposto. Antitesi significa opposto. Vuol dire l'opposto. Sì, volevo dire non la, il simbolo, cioè la fotografia, l'antecedenza. No, ma l'antecedenza di che? Quale antecedenza? Il prototipo del fascismo, non lo so. Il prototipo. Vabbè, assomiglia. Vabbè, alla... è grande confusione, mi pare comunque. Vabbè, assomiglia a un leader fascistoide, diciamo, no? Perché? Sì, non si può parlare male, perché se parli male tu stai sbagliando, ti attaccano. Sto dicendo anche in altre radio, ascolto, cioè, stamattina. Radio DJ, sì. Linus, per l'ennesima volta ha detto qualcosa, subito gli sono arrivati piombati addosso messaggi: il tuo capo ti paga per parlare male del movimento. Cioè, il capo sarebbe Repubblica, il gruppo Espresso, eccetera, eccetera. Tutte quelle cazzate di solito. Vabbè, ma ognuno la pensa, cioè, hanno questo atteggiamento di difesa del proprio leader a tutti i costi. Chi parla male è pagato sicuramente e non conosce la verità assoluta, non è ancora indottrinato dalla verità di Grillo e di Casaleggio. Non c'è dubbio che ci sia questo atteggiamento qua, non ci piove su questo, per cui magari qualcuno ne parla male di qualche aspetto semplicemente perché ne è convinto, semplicemente perché pensa con la propria testa, e viene attaccato da questa, no, da questa falange armata che agisce via web, armata tra virgolette, agisce via web, chiama le radio, eccetera. Giusto, Parenzo? Sei d'accordo? Sì, sì, sono giustissimo, sono ancora di più affascinato nella ricerca. Però il fascismo, il fascismo non c'entra niente, eh? No, il fascismo non c'entra assolutamente nulla, anzi, ma che fascismo? I fascisti erano persone spaventevoli e spaventose e violente. Enrico da Siena, fammi sentire Enrico da Siena. Enrico da Siena. No, è che hanno è un po' quello che è successo quando abbiamo criticato Giannino qua, si è verificata la stessa sindrome. Ma cioè, infatti sono leaderisti, in verità loro dicono, cioè Casaleggio dice che la parola leader è una parola del passato, una parola sporca, deviata. In realtà sono più leaderisti di quanto lo era Chavez da un certo punto di vista. Beh, adesso mi sembra un paragone eccessivo quello che stai facendo tra Chavez e Grillo, dai su. No, ma per loro probabilmente un modello, non dico una bestemmia, perché per loro c'era questo qui che voleva portarlo addirittura a Napoli, il signor Chavez, poi per fortuna ci ha dato, come dire, il ben servito da questo mondo, e quindi non staremo sentiamo qui a Enrico piangere. Sentiamo Enrico da Siena. Chavez, sentiamo Enrico da Siena. Rompicoglioni di meno, diciamo, rompicoglioni di meno al mondo. Lo sai chi diceva che gli avevano messo dei microchip dentro? Sara Tommasi, te lo ricordi? Sara Tommasi. Ecco, non ha candidato a Casaleggio Sara Tommasi, strano, perché Enrico da Siena, Enrico. Buonasera dottor Susani, buonasera anche al dottor Parenzo. Io volevo soltanto esprimere a proposito il mio cordoglio, il mio dolore, sono un po' fuori tema però, sulla morte di Hugo Chavez. Lei è dispiaciuto molto, per la morte di Chavez? Molto, tantissimo, credo che abbia anche molto da insegnare. Come Parenzo? No, da insegnare non c'ha un cavolo. Cioè... No, ma aspetti, lasci finire. Da insegnare alla sinistra italiana. Chavez, certo, Chavez ha molto da insegnare alla sinistra italiana. Assolutamente sì, credo. Per esempio? Beh, proprio il collegamento col popolo. Il collegamento col popolo. L'idea di interpretare i bisogni più profondi del popolo e dargli una risposta politica, pur ovviamente è chiaro che qui la critica da parte vostra sarebbe molto facile, ci sono degli eccessi nel chavismo, questo, degli errori, ecco, assolutamente. Sì, non è che si deve difendere, nessuno è immune da colpe. Però lei è molto dispiaciuto, molto dispiaciuto. Molto, moltissimo, le confesso che sono veramente addolorato. Cioè, perché è un vero leader di sinistra, secondo lei, signor Chavez? Sì, certo, ovviamente il paragone con Grillo che è avanzato. Diciamo che l'opposizione in Venezuela non era ben vista dal signor Chavez. No, non molto. Beh, in nessun paese, però, se mi consente, l'opposizione è molto... No, veramente ci sono dei paesi democratici in cui funziona un dialogo, in cui... Qui non scorrazzano militari, quando qualcuno è all'opposizione, non scorrazzano militari per le strade, ha capito? Questo, che ne dicano gli amici dell'Inter che amano il signor, che hanno dato l'ultimo saluto al signor Chavez, gli amici dell'Inter. Comunque, devo dirti una cosa, abbiamo perso Dario Fo, Abbiamo perso Dario Fo. Perché l'abbiamo perso? Adesso ti faccio sentire una cosa, quella che abbiamo mandato in onda prima, che è una delle cose più belle della giornata, dal blog di Grillo. Abbiamo perso Dario Fo, il quale dice: è cambiato il ritmo qua, cioè c'è un'altra musica. Mi dispiace per voi, cari maestri dello Sberleffo, ma stavolta la danza è un'altra, è cambiata l'orchestra, i musici e anche i ballerini, e non è più il tango col casché, ma un rock. Con lancio in aria di chi fa il furbo e ci allunga troppo le mani sul culo. Non mi molesta il moschetto. Pubblicità, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Ancora ricchi premi e Cotillon con David Parenzo, collegato eccezionalmente da Padova. Mimmo da Bari, buonasera, eccoci qua. Mimmo? Cosimo da Torino. Buonasera Cruciani, mi sente? Sì, la sento, dica. Ecco, buonasera, senta, io volevo parlare dello scandalo della carne di cavallo. In che senso, scusi? Perché io ho una macelleria che vende prevalentemente carne equina. Ah, dunque lei mi vuole dire che la carne equina è buona? No, assolutamente, io non voglio dire che la carne equina, io voglio dire che la carne equina c'è a chi piace, che è diverso. Ma questo non è in discussione, scusi, non è il punto. Se però scrivono manzo e dentro c'è il cavallo, voglio dire, è una truffa, no? No, io capisco perfettamente quello che lei mi dice, però io vorrei che dietro, visto che l'interpretazione dei giornalisti non è chiara, si dicesse anche che la carne di cavallo non è merda. Ma nessuno lo pensa, quando trovano le tracce di carne di cavallo dentro le confezioni dei ragù, eccetera, eccetera, è semplicemente perché sulla confezione c'è scritto una cosa e dentro c'è altro. Lo so, Cruciani, però lei sa cos'è un 1% su un chilo di carne? È un grammo, sono 10 grammi, cioè è una cosa, c'entra? È nullo. No, ma ho capito benissimo, quando trovano... Le spiego cosa c'entra, io ho capito la truffa, però il giornalista dovrebbe dire che la carne di cavallo non è malata, non che hanno detto che hanno messo dentro i cavalli da corsa, che non è assolutamente... Ma io non lo so cosa hanno messo dentro, non si può sapere, perché hanno semplicemente trovato DNA equino in alcuni prodotti. Il problema... Sì, però, ma ho capito, ma... Non si preoccupi, nessuno sostiene che la carne di cavallo fa schifo, che non va bene per la salute, eccetera. No, però la mia attività, come quelle tutte italiane, visto che noi siamo i grandi mangiatori d'Europa di carne di cavallo, sono col culo per terra, visto che l'Italia è già in crisi ci mettiamo ancora a rovinare un settore che non dico che funzioni bene, ma che è congruo. Cerchiamo di non dire cazzate. Ma nessuno se la prende con la carne di cavallo. Al massimo se la prendono con quelli che scrivono una cosa e invece dentro c'è altro. No, le spiego, perché lei dovrebbe andare a leggere quello che dice la Brambilla, che non vuole più macellare i cavalli. Vabbè, ma quelli trattasi di estremismi, che conosciamo, su. Ma sì, ma la Brambilla si dovrebbe preoccupare delle persone anziane che sono sole, dei bambini poveri, di cose molto più serie, visto che è un politico, perché se vuole conquistare dei voti non deve andarlo a prendere dagli estremisti, ma deve andare dagli italiani produttivi, da quelli che lavorano veramente. Grazie Cosimo, grazie. Maurizio da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vada. Senta, volevo solo intervenire sui microchip. perché io lavoro da 12 anni nei microchip e sento sempre dire queste sciocchezze, cioè che riescano a tracciare la nostra vita. Io posso dare il mio contributo e vi dico che il microchip, se utilizzato ovviamente in maniera consona, è assolutamente un vantaggio, non è uno svantaggio, e non si può tracciare le persone attraverso dei mega radar. Sì, scusi, però Maurizio, io non ho capito ancora, ma di che stiamo parlando? Dei microchip sottopelle di cui parlava il... Ma ho capito, quello dice che in America stanno già cominciando a mettere dei microchip sottopelle permanenti, iniettati, di che parliamo? Parliamo del nulla, cioè stiamo parlando del nulla. Ma è la verità, nel senso. Ma quale verità? Ma di che? Ma quale? No, Cruciani, mi creda, si possono iniettare sotto pelle, la verità. Sì, ma si potranno anche iniettare sotto pelle, si potranno anche iniettare sotto pelle questi microchip, ma non mi pare un argomento, come dire. Ma non è che gli americani ci stanno colonizzando con i microchip? Perché? Ma perché devo sentire? Senta, mi ha rotto le palle. Adotti un alveare e ci mettono una webcam dentro. Adotti un alveare. Tra l'altro è un progetto della sanità americana. Ma c'è troppo da ridere, perché c'è gente che lo pensa davvero che bisogna adottare un alveare che nel 2040 tromperà la rete e che nel 2020 ci sarà la terza guerra mondiale che durerà 20 anni. Ma siamo appesi a questo? Io non ne posso più. Traffico. Siamo qui, Stefano da Firenze. Buonasera, Stefano. Ciao, Giuseppe. Ciao. Dica, dica. Sì, volevo dire, Massimo Ghini, che è George Clooney dei Noartri, senza la tessera del PD forse pulirebbe i cessi a Cinecittà. Ah, Ghini, quando dice che sì, in realtà essere di sinistra è penalizzante. No, ma lui non è nemmeno un attore. Vabbè adesso lasciamo perdere, è un attore. Adesso. A lei non piace, ma è un attore. Lei dice, però sì, certamente quel fatto che quello che ha detto prima, cioè essere di sinistra è penalizzante per il lavoro nel mondo dello spettacolo, è ridicolo. Ma lui, come la sorella Mannoia, senza la tessera del PD non canterebbero nemmeno. Vabbè, lasciamo perdere. L'altra cosa che volevo dire è che oggi la Bianca Berlinguer, figlia del grandissimo Berlinguer, non ha accettato di dimissionarsi dal doppio incarico, cioè due incarichi. Deve averla fatta così grossa, ha fatto incazzare Lusigrai, che sono suoi amici, dentro i CTR della Rai. Ma chi se ne frega, Stefano? Ma chi se ne frega di Bianca Berlinguer e del TG3? Ma lascia un incarico, amore mio. Ma perché? Qual è il problema? Aspetti, aspetti. Diceva Stefano? Pronto? Sì, cosa stava dicendo? No, dicevo, la figlia di grandissimo Berlinguer del fascista murale c'ha due incarichi. Io non sono di parte, ma si sono incazzati i sindacati della Rai perché gli sembra anche a loro troppo. Ma la gente non gliene frega un cazzo di queste cose qui, non gliene frega niente che conduca pure il TG3 e condue sia direttore del TG3, Giuseppe, ma chi se ne frega? Non credo che non gliene porti un cazzo. Ma chi se ne frega? Ma saranno problemi se uno conduce il telegiornale e fa anche il direttore del telegiornale, perché qual è il problema? Qual è il problema? Votare e vota Grillo e fa bene, credo. Ma certamente non perché la Berlinguer conduce il TG3 ed è anche direttore del TG3. Ma ci sono delle persone attente, sarà un'elite in Italia, ma ci sono delle persone attente a questi comportamenti non morali. Non so, ho capito. Qui c'è un paese dove il TG3, la ma Rai non 3, è un che c'entra il comportamento morale? È appaltata il centro-sinistra da 20 anni. Ci sarà il conflitto di interesse di fede teatro come c'era prima, ma abbiamo una Rete 3 che ha appaltato la sinistra da 25 anni. Sì, buonasera, cerchiamo Paolo Bernini. Chi parla? Sono Cruciani, Radio 24. Adesso vado a dire, c'è un minuto solo. Grazie. Beh, stiamo aspettando, eh. Casa Bernini, Paolo Bernini, quello del microchip. Sì. Era la madre, il padre, chi è? Boh. Sono già terrorizzato. Sì, sto sentendo, no. E deve ancora tornare, mi dispiace, non c'è ancora. Non c'è, eh? No, non c'è. Non sapere questa cosa del microchip. Beh, lo so che siete assaltati oggi, mi dispiace signora, ma sì. Ma è lì, l'abbiamo sentito anche prima che parlava. Guardi che non volevamo solamente precisare, so che si è scusato. Guardi, però. Non c'è, mi dispiace ma non c'è. No, so perché c'è il governo americano, voleva delle precisazioni su questa cosa dell'utilizzo del microchip. Governo americano, miseria boia. Si sono mossi nelle guardie, signora, buonasera, sono Parenzo del Foreign Office of States. E siamo qui in Italia e eravamo un po' terrorizzati. Wait a minute. Non posso parlare. No, lo so, perché il governo americano voleva capire un po', voleva convocare l'onorevole per capire questa cosa qui che ha detto, che magari se nei prossimi giorni a Roma possiamo fare un incontro presso l'ambasciata americana in via Veneto, perché la questione è abbastanza importante, guardi. Glielo dirò, però adesso io non... questa questione dei microchip ci ha un po' terrorizzato, cioè io sono italiano, quindi lavoro per l'ambasciata americana. Però sa lì. Adesso io non lo so bene, ma guardi, non lo so, non comunque non. Scusi, wait a minute, I'm call with Grellino. Wait a minute. No, perché poi premono qui. Quindi... Scusi, poi signora, sono curioso di sapere una cosa. Come fa uno a disiscriversi? Lei è la madre, immagino, no? Come fa uno a disiscriversi dalla Chiesa Cattolica? Questo a noi americani però. No, lo so che a lei americano non interessa, però a noi italiani, cioè è piuttosto bizzarro, cioè se uno non si battezza più, come funziona signora? Scusi se io lo chiedo. Scusi, per favore, non rispondo, mi lasci... No, ma per carità. Fuori, per favore, io adesso non rispondo, mi dispiace tanto ma non rispondo. No, per carità, però è curioso, uno dice si battezza, poi si sbattezza, no? Sì, adesso sono sue parole, così comunque... Che non è vero, scusi. Sono sue parole, adesso io non so niente. Bisogna controllare se si è sbattezzato o no. Però certo, va bene. Certo uno. Poi uno che è vegano, come fa a mangiare un vegano a casa? Per lei deve essere tremendo, per una madre, no? Una fatica tremenda. Si abitua. Uno non può fare la carne, il pesce. Vabbè, comunque. Non c'è sicuro, suo figlio è là, su ce lo passi, signora. No, non c'è mio figlio. Vabbè, ma è un deputato della Repubblica, bisogna parlare pure con i giornalisti. Va bene, però non si può. Ma ha visto che sono entrate? Avete fatto entrare le truppe a casa vostra, le truppe di Ballarò? Non posso. Non ce lo vuole passare, signora. Non ce lo vuole passare. Buonasera. Noi siamo buoni, siamo delle persone buone. Va bene, grazie signora, buonasera, all'abbraccio. Non me molesti moschito. Non me molesti moschito. Non me molesti moschito. Why don't you go home? Non me molesti moschito. Vabbè, e che ti devo dire? Così è. E così è. Sergio da Bologna. No, Sergio da Bologna. Curioso che anche gli americani siano interessati all'onorevole Bernini, no? Sergio da Bologna, buonasera. Sì, buonasera, mi sente? Sì, la sento, dica. Senta, io volevo un attimino capire in merito all'intervento che ha fatto il senatore del Movimento 5 Stelle, dove lei poi avvalla anche certe cose che lui sostiene. Tipo disinfettarsi la mano a Gasparri, che è lontanissimo dalle mie idee, però sulla base di che cosa questa gente si sente superiore a tutto il resto? Perché gli fanno schifo. Ho capito. Come loro vogliono rispetto e hanno preso 8 milioni di mezzo di voti, ma anche l'altra parte non sono tutti deficienti o tutti mancanza di rispetto o tutti farabutti o tutti bastardi. Cioè sulla base di che cosa loro partono dal presupposto di avere la verità, il Vangelo, la santità. E questo è un atteggiamento che deve smettere, secondo me. Va bene Sergio, grazie. Io vorrei ritornare sulla telefonata che abbiamo avuto prima con Casa Bernini, perché sarà vero o no che quello si è disiscritto dalla Chiesa Cattolica, cioè si è sbattezzato? Perché mi sorgono dei dubbi. Non è difficile da fare questo, come ci hanno spiegato. No, però è strano perché la signora Bernini, mamma del succitato deputato, ha detto sono parole sue, sì. Magari le è dispiaciuto, no? Magari le è dispiaciuto. Vuol dire che la fede è un fatto privato, anche questo ha mostrato grande tenerezza, grande rispetto. Per carità. Giulio da Milano, buonasera. Sì, buonasera Parenzo, buonasera. Vada. No, volevo fare un intervento legato a quello che è successo ieri sera, che insomma è passato un po' in secondo piano, cioè l'intervento di di Renzi a Ballarò, no? Perché in realtà poi cosa ha fatto? Ha detto in 20 minuti quello che la direzione del PD ha detto oggi in non so quante ore di riunione, perché in realtà ha detto le stesse identiche cose, ha detto che avrebbero votato gli 8 punti all'unanimità, che ovviamente avrebbero dato l'incarico a Bersani, questo si vedrà nelle prossime settimane che cosa accadrà, ma ha detto praticamente l'ha fatta lui la direzione in 20 minuti ieri sera da Floris, ha detto quello che il PD ha fatto oggi pomeriggio. Ma poi, chi l'ha detto? Renzi. L'ha detto chiaramente, ha detto che cosa c'ha, ha detto che il grande statista secondo lui ovviamente aveva sbagliato come sempre a dare le presidenze delle camere o comunque a proporre le presidenze delle camere alle opposizioni, ha detto che ovviamente gli avrebbero votato all'unanimità gli 8 punti, cosa che è avvenuta, che l'incarico l'avrebbe avuto Bersani ma in questo momento per un partito come il PD questa è una mossa obbligatoria, ma è evidente che giustamente, per carità, ma lei poi ha fatto sentire prima il promo del TG3 con le anticipazioni, c'era che si sono meravigliati, l'ha messo chiaramente nelle anticipazioni, che il fatto che Renzi si sia alzato dopo l'intervento di Bersani se ne sia andato. Perché era inutile appunto, sentire un centinaio di persone che... Ma lui perché lo sapeva già cosa sarebbe successo, no? Grazie. Giuseppe dalla provincia di Chieti, buonasera. Buonasera, signor Cruciani. Sì, mi dica. Mi può dire pure matto come me l'ha detto l'altra volta? No, lei non ha ancora parlato, perché devo... No, stasera devo litigare con lei, sa perché? Perché, mi dica. Allora, non la chiamo dottore perché mi sorgono dei dubbi, perché nella vostra radio cioè, circolano personaggi plurilaureati, oppure si spacciano per dottori giornalisti, come il suo aiutante Zerbino, là, no? No, quindi, guardi... Non le dico nemmeno buonasera, perché per lei, cioè dire buonasera è sprecare, perché lei da un po' di tempo ha perso l'educazione, non conosce più le buone maniere, la signora l'ha persa. Ah, lo dico lei, io, lo dice lei. Scusi un attimo, ha appena dato dello Zerbino, del a Parenzo, anzi non è la prima volta che lo fa, e lei dice che io ho perso l'educazione. Beh, non è una cosa, se le do del matto. Io ho espresso la mia opinione sullo Zerbino, che c'ha come... Beh, ho capito, ma perché... Ma basta liquidarlo dicendo che lei è un coglione, ma questo detto con affetto e rispetto. Guardi, per tutti i coglioni. A me mi serve all'ufficio, all'ingresso qua, proprio stasera l'ho visto, sto dentro all'ufficio, mi serve... Dunque, le offro 7,50 euro. Che le serve? Lo Zerbino che le usa come lui... Ah, quello fuori, dici, no? Le offro 7,50 euro. 7,50 euro, cioè Parenzo vale 7,50 euro secondo lei? 7,50 euro, sì. Va bene, abbiamo la borsa, torniamo subito, resti lì Giuseppe. Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. Non rilassarti mai, lei non dà tregua sai, finché non punge lei tranquilla non sarà. Pomate a volontà e spray senza pietà, questo è il rimedio per l'insetto assatanato. I piccolini, quasi tutti laureati. Io l'ultima volta che a Roma ho visto tanti laureati in un colpo solo è perché Giannino e Crosetto stavano cenando insieme. Per cui... Zara che funge e poi se ne va, si chiama Tigre oppure... Sempre Giuseppe dalla provincia di Chieti, buonasera. Sì, allora... Dottor Cruciani, mi tolgo una curiosità. Quante canne si è fatto prima della trasmissione? No, guardi, aiutante Zerbino. Non mi sono mai fatto una canna in vita mia, dunque non mi rompa le scatole, Giuseppe. No, lei l'ha detto che se lo fa ancora le canne. No. Lei si sbaglia. Giuseppe, lei si chiama come me. Allora, voglio lo dico in dialetto. Allora, a Crucia, a scigli da su piedistalli, che muove a disc da su piedistale farai un fragore e mo glielo spiego. Allora, a Cruciani, Guro Cruciani, Scendi dal piedistale prima che si rompe e farai un fragore, ritorna con i piedi per terra. Bravo. Dopo che ha detto questo? No, la saluto perché questa è l'ultima serie che sento questa trasmissione. Ma quando io mai? Io gliel'avevo detto che assieme alle mele marci, che c'ha lo Zerbino marcio, la mela marcio, lei è diventato marcio, si continua a fare le canne come il suo amico. Ma io non me ne sono mai... Guardi, io pensavo veramente che di poterla far dimettere entro qua pochi giorni, perché il suo stato di salute mi sembrava, mi avevano detto, fosse in lento miglioramento. Purtroppo dovrà passare ancora qualche mese in reparto, mi dispiace. Passa la concorrenza, lei lo sa, la RAI. Ma come vuole, si accomodi. Guardi, a me mi dispiace con tutto il cuore. Sì. E adesso educatamente, sai che le dico? Sì. Educatamente, aggiungi all'affanculo. Benissimo. Ha abbassato il telefono o no? Silvia da Roma, buonasera. Silvia. Ha abbassato, l'hanno portato via, poverino. Sì, l'hanno portato via, sì. Ciao. Va. Buonasera Silvia, dica. Ciao, come state? Bene, bene. Oh, io volevo parlare del perché una persona che non è più giovanissima come me ha votato Grillo. Sì. E come tantissima altra gente l'ha votato, per lo stesso motivo che in cui l'ha votato Cruciani, per mandarli tutti a casa. Veramente io lavoro... proprio non è proprio così, però. Vabbè, comunque... ma io ci lavoro come consulente con i politici da molti, sì, molti anni, li ho visti tutti i colori. Ma quelli che hanno proprio più spocchia, la gente veramente che andrebbe menata, sono questi del PD. Perché veramente gente che ha una puzza sotto al naso, si crede chissà chi, non hanno capito niente del loro elettorato. Da Grillo c'era pieno di giovani, hanno fatto perdere Renzi. Sì, però non è che i giovani, adesso non esageriamo, non è che i giovani sono necessariamente più intelligenti, più belli, no, più buoni, dei vecchi. Ci sono dei giovani rincoglioniti, ci sono dei giovani che sono degli stronzi, ci sono dei giovani che sono dei pezzi di merda, diciamola tutta, questa è la realtà. Cioè, e nello, come gli adulti, forse anche peggio in alcuni casi, cioè, a seconda delle persone, non è che le persone vanno distinte tra giovani e vecchi. Chi vota oggi il PD? Ma chi lo vota con questa gente? Questa gente chi? Questa gente chi? Tre giorni prima delle elezioni a una che è una dirigente del PD, gli ho detto: scusate, ma perché non avete fatto candidare, non avete fatto vincere Renzi, avreste avuto un grosso successo? Quello non c'è dubbio, anche se con i se e con i ma non si fa la storia. Ma qual è la risposta? La risposta non è stata una risposta politica, la risposta è stata, e siccome era una persona ovviamente a una cena, sì, ed era una cosa privata, l'ha potuto dire, cioè perché noi dobbiamo difendere l'apparato e allora questi devono morire. Dobbiamo difendere l'apparato, ma effettivamente guardi che cioè, la vittoria di Bersani alle primarie si può spiegare anche così, con la difesa dell'apparato, solo che poi non basta l'apparato per vincere le elezioni. Si è inserita la variabile Grillo, grazie Silvia. Cristiano da Bergamo, buonasera. Pronto? Vada, pronto? Vada Cristiano. Buonasera, buonasera a tutti. No, io a differenza dell'ascoltatrice di prima, io non penso che i leader non hanno capito niente dei loro elettori. Secondo me sono gli elettori che non hanno capito niente dei loro leader, perché io continuo ad ascoltare Bersani, sì, e le assicuro che non mi rimane in mente un concetto. Oggi nemmeno uno. Oggi sì, ho posto questi 8 punti. Io l'ho ascoltato 2-3 volte. Io non mi ricordo già nulla di questi 8 punti. Non mi ricordo nulla neanch'io. E questo è il grande problema. A parte questo, secondo me Ingroia ha perso il 2% per l'effetto Crozza. Perché no, io, ma quando mai? Ma che c'è? È chiaramente uno scherzo, ma io le dico che da quando ho visto Crozza imitarlo, tutte le volte che lo vedevo non riuscivo più a prenderlo sul serio, mi mettevo a ridere. Cioè, ma no, ma non è così. A parte Crozza ha imitato tutti, dunque il virus di Crozza doveva inocularsi o doveva colpire anche altri, invece in realtà non è stato così. Cristiano, grazie. Ivan da Verona. L'ultima cosa. L'ultima cosa su Parenzo. Io comprendo perché Parenzo non riesce a percepire la filosofia di Casaleggio. Perché lui effettivamente è contrario a lavorare un'ora sola e vuole lavorare tanto, perché lui quando lavora va a comprare il formaggio, va da kebabaro, ed effettivamente lo comprendo anch'io che vorrei lavorare anch'io in quella maniera. Quindi gli consigliavo una bella cura del manovale, un mesetto per comprendere la filosofia mesetto, di Casaleggio. Un mesetto al tornio, un mesetto alla catena di montaggio, su. Non esiste più il tornio, comunque così, va bene. Capisci. È una metafora, una metafora. Il tornio, al tornio. Viva gli irochesi, viva gli irochesi! Fra poco ci sarà il nuovo Papa! Chiediamo qualcosa a Monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea. Monsignor Bettazzi, buonasera. Buonasera. Come va, Monsignor Bettazzi? Non c'è male, grazie. Senta, abbiamo avuto ieri Don Gallo qui da noi, il mitico Don Gallo. Ne sa più di me. Beh, insomma, adesso è un po' immischiato con la politica, diciamo la verità, insomma, no? Mediato, lei non fa la mediazione con nessuno, perché ormai i sacerdoti, i preti, nel caso di Don Gallo, fanno i mediatori. Sembra che abbia fatto un po' il mediatore, o stia facendo, in realtà no, lui... No, no. no, io sono al di fuori di tutte queste cose, sono emerito da troppo tempo. Giro per l'Italia per parlare del Concilio, avendo avuto la fortuna, la grazia di partecipare come vescovo, giovane vescovo. Ma se no, le altre non cose fa mediazione per fuori. Nessuno. Ma lei vota? Ha votato, signor Bettazzi? Ho votato. E chi ha votato, si può sapere? Perché? Ah, no, nel segreto dell'urna. Dio ti vede, Stalin no, dicevano una volta. Vabbè, comunque io ho votato perché ci sia più solidarietà nel mondo. E vabbè, quello però in teoria parole lo vogliono tutti. Ma ecco. Lei vota a sinistra? Facciamo. No, sono mancino, ecco, dirò questo. Ah, vabbè, allora essendo mancino ha votato Partito Democratico, su lo dica. O più no, a sinistra, no, no, no. O più non a sinistra. Mai per chi voto? Ma non è una cosa di grande trasparenza, volendo, no? Sì, ma la trasparenza quando si deve essere, siccome il vescovo deve essere amico di tutti, poi nel segreto di l'urna allora vota per, ma tanto tutti quanti lo sanno, perché o immagino per chi voto. No, non immagino perché voti, noi non lo sappiamo, non siamo di Ivrea noi. No, cioè, per il rinnovamento, ecco, per un rinnovamento. Vabbè, rinnovamento, in realtà parole la vogliono tutti. Lei ha già detto sono mancino, sì. Per cui ha votato SEL o PD? No, non lo dico, guarda. PD, ma ha votato... comunque ho votato per un partito, non per un movimento, ecco. Per ah, io per un partito. Non vorrei parlare dei partiti. Grillo non ha votato, insomma. Grillo no, possiamo dire Grillo, andiamo a discussione, Grillo no. Va bene, basta. No, lei crede che un domani si potrà eleggere il Papa in rete, come usare il metodo per l'elezione del Papa come hanno usato i grillini, una sorta di primaria, sarebbe no, meraviglioso. Questo credo, no? Credo proprio di no, perché vede, no. Hanno bisogno, dal momento che si tratta di individuare così, hanno bisogno di conoscere, di sapere, vede i contatti, rimandano perfino un po' più tardi di quanto si poteva pensare, sì. L'ingresso nel conclave per poter parlare, per potersi orientare. Ma lei ci crede ancora nel concilio? Cioè nel concilio, scusi, nel conclave Bettazzi, oppure una roba vecchia, che si deve superare? Perché, guardi, le ultime sono andate abbastanza, e poi delle volte lo Spirito Santo interviene, come quella volta che pensavano che il Papa fosse Montini, dice votiamo un cardinale vecchio che fa cardinale Montini, poi muore, così Montini diventa Papa, un Papa di transizione, guardi Papa Giovanni che transizione ha fatto. Io credo che lo Spirito Santo ci lavori, si serve di cardinale ma ci lavori. Senta, lo sai che ci ha detto ieri Don Gallo? Ci ha detto che sarebbe magnifico, stupendo avere un Papa omosessuale. Beh, Don Gallo è un po' avanti in queste cose. È un po' avanti, cioè che riconosca la presenza e i diritti che hanno gli omosessuali, questo sì. Perché devi sapere che si è dichiarato omosessuale, forse potrebbe creare troppi problemi dagli eterosessuali. Chi dice lei? Lei vede che anche gli stessi anglicani che sono più, o gli stessi luterani che sono molto più aperti, vorrei dire, poi hanno avuto dei problemi per questo motivo, insomma va tenuto presente che le cose vanno fatte con discrezione, con rispetto per tutti. Dunque lei è un'ipotesi, le piacerebbe un Papa nero? Perché no, se fosse in grado di farlo bene, l'importante è questa volta soprattutto uno che conosca bene le strutture della Chiesa, perché Benedetto si è rammaricato di non aver purificato completamente la curia, sì, la curia. Sì, e allora ci vuole uno che sia in grado di farlo. Ma bisogna un po' aprire Bettazzi, oltre che aprire, che ne so, anche al sacerdozio femminile? A suo tempo, io comincerei col diaconato femminile. Col diaconato femminile. Che all'inizio della Chiesa c'erano le diaconesse. E anche il cardinale Martini diceva, voi dite no, non le donne prete perché non c'erano all'inizio c'erano le diaconesse, è già un ordine sacro anche questo. Bisogna aprire, per esempio i preservativi, no? Anche un'altra cosa che viene rimproverata alla Chiesa, perché sarebbe importante aprire, no? Distribuirli anche nelle chiese cattoliche, fare una promozione, la Chiesa dovrebbe favorire queste cose. Sono tutte cose che vanno promosse con discrezione, ecco. Perché con discrezione? I preservativi sono preservativi. Dice, ma finora non era. Oggi si capisce che il fine primario del matrimonio, prima ancora della procreazione, è l'amore tra gli sposi. Sì. Allora ecco, questo qui pian piano porterà a valutare le cose in modo... Però bisogna, anche là bisogna aprire preservativi, all'uso del preservativo, anche in paesi dove, no, dove c'è bisogno per l'AIDS o no? Non da dire, beh, fatelo sempre, salta, così. Ah, beh, il sesso, dice lei. Far capire che tutto deve essere orientato veramente alla ricerca dell'amore, dell'amore tra gli sposi. L'amore tra gli sposi richiede quello, perché molte volte lo si fa per poter fare con disinvoltura con chiunque. E vabbè, esatto, le cose vanno, c'è anche vanno questo, maturate con discrezione, con chiarezza, con discrezione. Capito, Parenzo? Bisogna fare le no, cose con discrezione. Capito. Io volevo chiedere al nostro amico vescovo, cosa che chi vedrebbe bene, cioè un nome di una persona che vedrebbe bene in questo momento per sì, leggere Santa Maria, per esempio, Chiesa, meglio uno straniero o un italiano? Si dice molto gli italiani forse non vanno bene in questo momento, lei preferisce? Ma può darsi che uno straniero dia più speranza di rinnovamento, meglio darsi uno straniero, gli italiani troppo pericolo alla curia, i problemi della curia. Sì, però uno straniero che se la cavi anche con tutti i meccanismi che ci sono nell'interno, meglio uno che, straniero comunque, che non rimasti, sì, forse sì, forse è meglio. Senta, l'ultima cosa, ma esiste secondo lei la lobby gay in Vaticano? Questo se ne è parlato nei giorni scorsi. Esiste una lobby che promuove, che ogni, spesso mette nei posti chiave delle persone discusse, dei pedofili? No, io ritengo, cioè è vero che ci sono, ma che sia addirittura una lobby che organizzi questa, lo escluderei. Che ci siano di queste persone che loro, vabbè, quello sono, è chiaro, collegate tra di loro, ma non da fare una lobby. Una lobby. E il cardinale Calcagno dovrebbe partecipare, quello molto discusso dalle sue parti, un po' più giù verso la Liguria, lo sa questa discussione? Sì, sì, sì, sì, ma dovrebbe partecipare al conclave secondo lei dopo l'inchiesta delle Iene? Partecipare sì, ecco, forse diventare papa sarebbe meno opportuno. Beh no, papa adesso questo mi pare molto difficile. Nessuno però, ci pensa. Però secondo lei dovrebbe partecipare al conclave? Uno che magari ha... No, insomma, se beh, non ha denunciato, non ha denunciato una persona che... Allora, insomma, se lui in coscienza si sente libero, se gli altri ritengono che possa esprimere un parere positivo, perché no, eh? Cioè, secondo lei non si deve denunciare sempre? No, lo si deve fare, ma lo si deve fare con molta discrezione. Già bisogna essere prima molto sicuri, poi bisogna vedere se la persona è in grado di recuperare. Certamente, cioè non bisogna andare, non bisogna andare subito e non abbastanza le vittime, ecco, quella lì è la cosa a cui forse non pensavamo. D'accordo, però non bisogna andare subito dall'autorità giudiziaria, dice lei. Io dico prima vanno valutate bene le cose, ecco. Perché cioè, delle volte ci possono essere anche delle indicazioni inesatte, ecco. Allora, cioè meglio alcune volte risolvere la situazione all'interno piuttosto che andare all'autorità giudiziaria, questo voglio dire. Io dico, ecco, prima chiarire bene, ecco, chiarire bene con l'interessato com'è la situazione. Poi se la situazione ha coinvolto anche delle altre persone, e allora è anche giusto che la cosa venga segnalata all'autorità. Bertinotti, perdiamo il compagno, l'amico che abbiamo avuto la fortuna di conoscere direttamente, Chavez. Minà, Gianni Minà, che spera che il vicepresidente Maduro e tutta la nazione bolivariana sappiano condurre il Venezuela nel solco tracciato da Chavez. Anche lei è affranto per la perdita di Chavez, Monsignor Bettazzi? Ma mi sono rammaricato, ecco. Anche se così io pensavo che avrebbe dovuto anche lui fare le cose con più, forse con un pochino più di moderazione, ma insomma era una speranza per molti in America Latina. Comunque no, io tornerei sull'aspetto della pedofilia, perché effettivamente, come dice lei, non è che per forza uno quando ha delle notizie deve andare immediatamente dall'autorità giudiziaria, no? Bisogna deve prima valutarle con attenzione. Valutarle, certo, sì. E poi, sì, ecco, e poi certamente sì, sono coinvolte altre persone, allora è giusto. Beh, quello anche... sempre sono coinvolte altre persone, comunque in ogni caso, non è che è coinvolta solo una persona, quello comunque sono coinvolte altre persone. Però lui dice non denunciare subito, prima far chiarezza all'interno, questo far dice. Chiarezza all'interno io credo che sia fondamentale. Sì, normale. Beh, di solito però dovrebbe fare chiarezza l'autorità giudiziaria. Poi giustizia, diciamo che in questo paese c'è il tribunale, comunque. Monsignor Bettazzi, l'abbraccio fortissimo, a presto. Prego, grazie. Grazie. Lia, provincia di Sondrio, buonasera. Buonasera, io vi amo perché ci fate ridere, incazzare e anche pensare. Sì. Volevo parlare di Grillo, poi in realtà se mi lasciate dire due parole su quello che ha detto il prete poc'anzi. Beh, mi sembra piuttosto grave, però comunque... Sì, sì, allora iniziamo con Grillo. Tutti quelli che chiamano e dicono che hanno votato Grillo per proteste... Questa è stupenda, salve, non so dove l'ho letta oggi, salve, sono Gianfranco Fini, disoccupato, mi piacciono le immersioni, ma vorrei tornare a galla. A qualcuno serve un sommelier? Stupendo, eh? Ecco, stupendo, sì. Volevo dire che probabilmente in tanti come me hanno votato Grillo perché vogliono dare la possibilità a qualcuno di dire qualcosa di diverso, di fare, lasciargli provare a fare qualcosa di diverso, di nuovo. E il fatto che tanti giovani partecipano fa veramente piacere, perché siamo stufi di sentire cazzate di gente di 50 anni e se qualche giovane dice qualche cavolata, sinceramente... non è brutto, insomma, non è negativo neanche questo. Quello che è negativo, vabbè, Lia, però andiamo al sodo, su, cara. Sì, al sodo. Allora, al sodo, perché non ho capito niente fino adesso, eh. Cioè, lei dice meglio i giovani anche se dicono fesserie piuttosto dei vecchi. Anche questo non mi pare. Chi dice fesserie dice fesserie, punto e basta. Sono nuovi, sono giovani, quindi quando parlano possono anche sbagliare nell'esprimersi. Sì, ho capito, dire... però abbia pazienza. Quando uno entra in Parlamento e comincia a dire delle cazzate, dice delle cazzate, punto. Poi, certo, per carità, non sarà grave, vediamo quello che fanno concretamente. Ha ragione, ecco, punto. Se sono presenti, se rompono i coglioni, diamogli, alla casta, ecco, diamogli la possibilità di provare. Ecco, quello che non mi piace è il fatto che se dicono una cavolata poi si nascondono, tipo poi... il ragazzo che avete chiamato prima. Ecco, per quanto riguarda il prete di prima, non mi è piaciuta assolutamente la risposta quando lei gli ha chiesto e se fosse il Papa Nero, e lui, ma basta che la risposta di un prete non dovrebbe essere questa, dovrebbe dire il Papa, vabbè, è Papa al di là dei colori della pelle. Va bene, grazie. Ivan da Verona, buonasera Ivan. Sì, buonasera Luciani, Parenzo. Vada. Senta, io la chiamo parafrasandola per spiegarle di che cosa stiamo parlando. Cioè? Di come e perché una persona si possa sbattezzare. Sì, ma lo so che è possibile farlo, per carità, c'è una procedura che è possibile farlo, ma chi se ne frega di saperlo? Quando uno si presenta e dice io sono vegano e mi sono pure sbattezzato, vabbè, pazienza, sei vegano e ti sei sbattezzato, ma che me ne frega? Cioè, che me ne frega a me sapere che ti sei sbattezzato dalla Chiesa? Oppure è un programma politico, cioè voglio, che ne so, cioè, eliminare il concordato, una cosa di questo tipo. Caro David, ti saluto, saluto tutti, dobbiamo chiudere, a domani 18:30, viviamo e lottiamo insieme a voi. Più in là abbiamo messo su una pianta di limoni, con tre di quei frutti ci possiamo fare un detersivo per i piatti e per la lavastoviglie che non inquina. Vi faccio vedere un altro aggeggino, che è questo qui. Questa si chiama Moon Cup, è la coppetta della luna e aiuta le donne a raggiungere l'obiettivo dei rifiuti zero. Queste piccole cosine per dire che il cambio del proprio stile di vita è una delle prime cose che dobbiamo fare se vogliamo realmente cambiare il mondo. Diciamo che la nostra vita può essere un po' più virtuosa anche per aiutare tutte le persone a non essere sfruttate nelle varie parti del mondo. Un concetto... Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ha ragione, quando ritorno a casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io vi amo perché ci fate ridere, incazzare e anche pensare. Radio 24, la passione si sente.